12. Ascolta e completa il testo con i relativi. Il signor Stefanetti, che è seduto in prima fila, è uno scrittore. Ogni tanto il signor Stefanetti consulta l'elenco telefonico e sceglie tre nomi. I nomi che sceglie diventano i suoi personaggi. L'azione di cui ti parlo è come un rito. Il signor Stefanetti accende la lampada vicino alla poltrona, si siede, indossa gli occhiali che sono ben in vista vicino alla poltrona, sfoglia qualche pagina e ecco il nome di un nuovo personaggio e l'inizio di una storia che diventerà un successo.